diversi tipi di mappature, cioè non le diverse cose che avete trovato nella mappatura, ma che le mappature erano diverse, anche da capire. Io voglio capire cosa sono quelle forme. La prima è una scamorza, quella. La il caciocavallo. Allora, sono le forme essenziali di tutti gli insetti incontrati in questo spazio. Solo gli insetti volanti. Senza andare nel dettaglio. Diciamo il principio di silhouette. Però il bombo sembra una scamorza perché non risultano le tre parti classiche di un insetto, ma ce ne sono due. Io pensavo un residuo archeologico. Esatto, perché anche le attrezzi, ma sembrano tipo a lanci, attrezzi, no. Questi sono i pattern collegati agli insetti. Quindi abbiamo estrapolato le striature delle cimici e le forme della vespa. Poi la tibia della mantide. Ah sì, c'era una mantide. Tutto il pattern simbolico che emergeva dal mondo degli insetti incontrati esclusivamente per questo. Poi bene, scomposto gli insetti. Sì. Bene che c'è anche il gusto. C'è anche il gusto. Ma io per ricollegarmi alla questione della mappatura, diciamo, pensando a che cos'è, come affrontare la biodiversità, io ho pensato, no, noi abbiamo pensato alla pluralità, e quindi non a una restituzione, ma a alcune restituzioni, non una mappatura soltanto, ma diverso tipo di mappatura. Il disegno e la, diciamo, la capsulina più o meno sono le stesse cose? Ma sì, diciamo che c'erano tante forme spiraleggianti che tornavano, c'erano le cioccioline, abbiamo trovato un paio di erbe che avevano dei semi che spiraleggiavano. Quindi forme simili ma cose diverse. Sì, esattamente. E poi la forma spirale che ci aveva colpito, che quindi non era un cerchio, ma un qualcosa chissà. Per i disegni avete utilizzato materiali provenienti da qui o sono solo su questo? Sì, su questo c'è del peluccio. Per me, che mi occupo di biodiversità, è bellissimo vedere come avete scomposto quella parte che è la lista di che cosa c'è, senza niente di più, semplicemente la presenza di queste cose, e poi la scomposizione di altre due attributi, che sono la comparazione tra le forme e la comparazione tra i colori. E questo già dà una funzione, non nel senso di a cosa funziona quello che faccio, ma i tratti funzionali stessi degli organismi. E questa cosa di scomporre le forme e renderle quantificabili nel confronto è una delle analisi che si fa spesso con tecniche che si chiamano dimorfometria geometrica, in cui metti dei punti, dei landmark che identificano la forma, li trasformi matematicamente per poter confrontare forme diverse e vedere anche la diversità delle forme di un singolo sito. Quindi è la stessa cosa, poi si può fare con le scomposizioni degli spettri dei colori e di analisi varie per mettere insieme pattern di colori in maniera diversa. Quindi perfetto, questo è quello che farebbe qualsiasi ricercatore che si occupa di biodiversità, che scompone le varie componenti per cercare di trovare una ragione del perché queste componenti sono insieme. Mi voto 10. Posso chiedere sull'storia del cervo? La storia vuole che io, guardando il cartello, perché di ora. Sì, il cartello non lo vedo. Perché noi siamo pericolo. Un po' sì, quello. E abbiamo deciso che non lavoravamo solo nei nostri 10 metri, ma che guardavamo anche tutto quello che c'era intorno. E nei nostri 10 metri ci sono anche i rovi. Almeno a livello di orizzonte. E poi volumetrico. Quindi sopra, sotto, in prospettiva, i suoni che arrivano. Siccome eravamo seduti qui, fisicamente, come abbiamo provato a restituire in questa parentesi, e lì c'è questo cartello che è rosso e argento come il finale di Andrea. E come la vitalva. Ho detto, mi sento come un cervo. Anzi, mi sento un cervo senza quel rosso. E così è nata un po' la metafora sulla quale poi abbiamo continuato. E poi eravamo qui e avevamo così di essere degli animali riparati, e poi Jessica ha scritto delle tracce di una storia e poi le abbiamo elaborate. Esatto, grazie. È vero che seduti, c'era questa cosa dell'essere riparati, è fortissima. perché noi all'inizio perché noi all'inizio infatti l'impatto è stato mettiamoci lì, perché questo lo avvertivamo come un qualcosa erba alta, chissà, quindi mettiamoci intanto lì. E abbiamo aperto il telo, ci siamo seduti, i nostri ok. Poi abbiamo detto, vabbè, adesso che si fa? Si deve andare pure di là, e che facciamo? Telo, non telo? Vabbè, andiamo, vediamo. Poi invece lei, Caterina, è arrivata, si è seduta, ha detto, ma io ci sto proprio comoda. E quindi senza telo, senza più pensare. Sì, e quindi poi da lì è un po' nato tutto. Diciamo, i due protagonisti sarebbero da una parte il dissidente e dall'altra il cervo. Il cervo. Il dissidente che presupponiamo essere il proprietario di questo pezzo di terra. Non sappiamo. Che potrebbe essere molto complicato, un dissidente, per voi, o rimetterlo senza telo adesso. Uno che non c'è solo... più nel no, senso. No, no, noi l'abbiamo messo via. Solo per una questione di non farlo bagnare. No, già pensavo che potrebbe una scelta. Possiamo vederlo senza telo? Esatto, perché noi poi avevamo visto sul quaderno la parcellizzazione. Che sì, poi ci ha spiegato anche sì. Flavia quando sì, siamo andati e quindi abbiamo detto, vedi, tanti proprietari, chissà se sono tutti d'accordo oppure e quindi era nata questa e poi questa chissà storia. Se ci sono ancora tutti ora, esatto. Non nel senso solo esatto. Diciamo vero del termine esatto. Che magari esatto. Erano di tanti anni fa ma esatto. Anche perché magari sono andati in città o... chissà esatto. Ah, e scrivendo la storia abbiamo cercato di inserire una serie di elementi che abbiamo mappato, tipo ad esempio la mantide, abbiamo visto una mantide che stava cacciando una cimice, poi appunto argento e oro sono sia i colori del cartello ma anche i colori della vitalba e della rosa canina, e c'erano tante mosche, non ci sono nella mappa ma sono presenti nella storia, le chioccioline che fanno le bave che sbrilluccicano perché abbiamo passato la sera a guardare le stelle, quindi insomma, abbiamo cercato di mettere insieme tutti gli elementi. Che di giorno se voi le prendete stanno lì immobili che sembrano morte, poi invece quando siamo venuti di sera invece erano vive, avevamo c'era movimento. Chioccioline. E poi ci siamo chiesti perché è così morbido, perché al di sotto dello strato di sterpaglia in realtà c'erano questi ciuffi che quindi ti davano proprio comodità nel sederti, allora abbiamo iniziato anche noi a scavare perché abbiamo detto ma che c'è, e quindi c'era il muschio e poi c'era la terra. Livelli. Sì, nello strato erbaceo ci sono ulteriori sottolivelli. Sì. Una specifica sulla diciamo mappatura ironica che forse rispetto a altri che lasciano un po' di traccia viene forse è quasi una questione metodologica ma fatto ironica lassù e quella lassù che va fuori esatto, cioè il discorso è stato prendere sul serio il gioco e anche il riso dal momento in cui ci stavamo anche conoscendo tra noi riso, per avere un accesso poi alla conoscenza di questa biodiversità che ci... Perché era anche un po' il nostro essere plurali, questo è un termine che era venuto fuori molto, perché pur essendo diversi alla fine non c'è mai stato bisogno di darci magari delle regole per parlare, per gestirci, per prendere decisioni, quindi anche questo ci è piaciuto molto. Sì, tutto è iniziato prendendo il caffè ed è stato tutto collettivo dall'inizio. E poi è finito anche questa roba l'ha buttata in cacciara fin da subito e non abbiamo mai fatto un momento individuale totale, è sempre stato tutto molto collettivo. E abbiamo visto come poi tutto tornava anche ieri nel bosco con queste scie di bava, con anche questo che a noi ci sembrava appunto abbandonato, ma in realtà era vivo, quindi come appunto ieri, un po' poi tutti questi elementi che erano tutti fuori da noi, quindi ritornati in forme diverse. E trasformazione, quindi, esatto. Risignificazione sono state due voci. Nella scelta dell'ecotono a questo punto l'abbiamo sdoganato famoso. Sì, c'è anche quella parte perché lì c'è la serie due tipologie molteplici ecotoni, il fatto che lì sia gestito e qui abbandonato, lì sia erba medica, quindi qualcosa che viene dato da per gli animali che a loro volta sono stati addomesticati, mentre questa è la parte che serve come nutrimento per animali non addomesticati, e come adesso invece ci abbiate dato sempre da mangiare da questo lato qui dell'abbandonato rispetto a quello gestito. Diciamo l'invito è pensare all'abbandono come abbiamo scritto, sì. Come pratica di conservazione oltre che di mantenimento. E di solito le strisce di biodiversità si usano vicino ai campi agricoli per fare esternalità, cioè quindi per ciò che è dal campo agricolo, ad esempio se ci sono degli impollinatori e io li semino grano, vanno, servono per dare a impollinare quella parte di grano e si usano in agricoltura spesso. Ma noi continueremo a pensare che questo, il proprietario di questa zona abbia deciso di non incontrarla. Sia un dissidente. No, no, ma è giusto, è giusto così. Sia parte del gruppo, diciamo, sì, l'elemento che oggi non c'è. Sì. Ma compratevelo questo campo. Sì. Ci vuole, comodo, comunque, 30 euro. È vero che ci sono degli elementi, no, che confinano. Sì, sì. Però, diciamo, il proprietario del campo accanto ha perfettamente rispettato il campo del dissidente. Siamo noi, cioè, non l'abbiamo rispettato. Esatto, voi l'abbiamo, noi l'abbiamo calpestato, ma magari era qui per essere calpestato, questo dipende. E quindi, diciamo, c'è un senso anche di interazione, esatto, questa cosa qui. E l'altra cosa che devo segnalare, diciamo, l'aspetto della protezione, stare seduti, eccetera, e si arriva anche alla questione del mimetismo nell'ambito, diciamo, delle possibili strategie con il quale, diciamo, essere dentro gli ecosistemi da parte degli animali che ci sono. Ma infatti questa cosa del cervo ritornava più spesso, anche perché adesso noi qui ci siamo tornati due volte e non si vedono più, però la prima volta era proprio chiara, c'era la striscia e poi adesso dove vi siete seduti voi si vede meglio e c'erano proprio le nostre impronte, che è classico, non so se qualcuno di voi ha mai visto quando i cerbiatti si alzano dopo essere stati in un prato un po' alto, vedi proprio. E avevamo praticamente le stesse impronte, sembravano cinque cerbiatti che si erano seduti qua, quindi continuava, c'era il cervo, la sensazione, l'essere nascosti, e poi appena ci siamo alzati abbiamo notato che avevamo lasciato delle impronte molto simili a quelle. Ma in effetti non vi si vedeva, cioè dall'ostello non vi si vedeva, sì. Noi che eravamo dall'altra parte. No, solo per dire stessa cosa al capriolo, siccome ci siamo andati, quando noi siamo venuti a maggio ad Amplero non era ancora tagliato, quindi l'erba era alta, sebbene non fiorita come è bello venire qui verso fine aprile, inizio maggio, ma si vedeva dove c'erano stati gli animali a riposarsi, i cinghiali o altro, perché vedevi proprio dove dovevamo stazionare. Altre forme invisibili proprio, sì, ti cioè, lasciano. Sì, che sì. Se non ci capiti vicino. Forse la forma, esatto. Stavo pensando proprio. L'ultima cosa su cui dobbiamo andare. E invece la modalità che avete usato, la lettura che comunque si iscriveva in una modalità performativa teatrale, che magari Caterina ha già usato nelle sue pratiche performative alla grande, mi chiedevo. Se per voi vi devo tutti allo stesso livello naturali, è una novità assoluta, come vi siete sentiti, l'avete già praticato, lo vedete come una possibilità di... Lo vedo come una possibilità, sì, non l'ho praticato quasi. Però è stato costruito tutto in maniera molto comunitaria, nel senso che vabbè, magari a un certo punto in base alle discipline qualcuno dava un po' più di linee guida sui diversi aspetti di tutto il processo, forse io ho guidato un po' di più questo, però è stato scritto in collettivo. Cioè ogni parte che è stata letta è la persona che l'ha letta che poi l'ha tirata fuori. Sì, esatto. In qualche modo, poi l'abbiamo è stato un processo di scrittura collettiva, quindi tutte le frasi le abbiamo scritte insieme. Io in parte già praticato, però. Già praticato tramite Teatro Natura, perché chiaramente poi si fanno. Sì, sì. Quindi c'è due figure forti. Sì, esatto. E cavoli. Anche la scelta di partire dall'inizio, cosa dire, sono state cose comunque che sono avvenute attraverso una cosa. La questione della scomposizione, di cercare le forme ultime, diciamo, i principi formativi sono il capo della scienza, come sottolineava Diego, sono